I nonnini sono rock and roll, quando ballano è da rock and roll. Quando sono meno stanchi di te che hai 20 anni, quello è rock and roll. Hanno una pazienza rock and roll e una forza proprio rock and roll. Se li fa incazzare troppo ti fan ballare il rock and roll.